Sono le 13 e un minuto. GR24, il sole 24 ore. Tassa sulle banche, il no degli industriali, libertà d'impresa, oggi l'ok del governo. Nuovo attacco contro gli alpini in Afghanistan, bomba contro un blindato, nessun ferito. Quattro proiettili per Gardner, morto il condannato americano che aveva scelto la fucilazione. Mondiali, addio e Domenech, Francia praticamente eliminata, tra poco la prova della Germania. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura ancora i risultati del Consiglio europeo di ieri. I leader dei 27 porteranno in sede G20, come sapete, la proposta di una tassa sulle banche, che però in Italia trova al momento uno schieramento trasversale contrario, non solo i banchieri ma anche Confindustria. Mentre sul tema della pubblicazione degli stress test, ossia le verifiche sulla tenuta degli istituti di credito in uno scenario di crisi, interviene il governatore della Banca d'Italia, il servizio. Le crisi di competitività e di bilancio in Europa lo dimostrano. C'è bisogno di una disciplina comune di bilancio, fondamentale per la costruzione dell'Europa. Così Mario Draghi, che è favorevole anche alla pubblicazione degli stress test condotti dalle banche nazionali sul sistema creditizio. È qualcosa che faremo anche in Italia, ha detto Draghi. Spero che alla nostra decisione seguirà il giusto consenso. Penso che i paesi con una buona struttura finanziaria abbiano solo da guadagnare dalla pubblicazione di questi risultati. D'accordo sugli stress test anche l'amministratore delegato di Unicredit, Alessandro Profumo, che ha però suonato l'allarme sulla proposta europea di una nuova tassa alle banche. Sentiamolo. Tanto diciamo, il sistema bancario, se andiamo in Italia, abbiamo il carico fiscale più alto tra tutte le varie industrie. Quindi mi sembra profondamente unfair. Dopodiché qua ci viene richiesto di avere più capitale e fondamentalmente il capitale avviene da ritenzione di utili. Come sappiamo oggi i risultati delle banche sono particolarmente bassi, aggiungiamo un'ulteriore tassa e poi c'è qualcosa che non quadra. Contro la tassa anche la presidente di Confindustria Marcegaglia, perché, ha detto, sarebbe come prepararsi a pagare una nuova crisi finanziaria. Nicola Accardo, GR24, il sole 24 ore, Roma. Ai leader del G20, che si riunirà fra poco più di una settimana, arriva intanto anche la lettera del presidente americano Barack Obama. La nostra priorità, dice, è salvaguardare e rafforzare l'economia mondiale. Dobbiamo impegnarci sul fronte delle finanze pubbliche, dobbiamo completare la riforma della finanza e ci vuole più trasparenza sul settore bancario. Tra l'altro, le banche non sembrano aver risentito particolarmente di queste notizie sulla possibilità di una nuova tassa in borsa, tutt'altro. Deborah Rosciani. Sì, potrei essere ancora più esplicita, Simone, e dirti che questi titoli del settore bancario si disinteressano totalmente all'ipotesi di una tassa che gravi su loro per aiutare gli stati a risanare i bilanci pubblici. Infatti gli indici sono leggermente negativi in questo momento in Europa, ma i titoli del settore bancario sono tutti fra i migliori dei rispettivi panieri di riferimento. Questo capita a Piazza Affari, sta succedendo anche in Francia, per esempio, dove Crédit Agricole guadagna il 2,34%, Société Générale all'1,12%, andando a Piazza Affari, Popolare di Milano, Monte dei Paschi, Intesa e Mediobanca sono tutti tra un rialzo di circa un punto e un punto e mezzo. Il miglior titolo a Milano è Unipol, settore bancario e assicurativo, qui c'è un aumento di capitale, argomento diverso, ma in ogni caso questa notizia non si fa sentire assolutamente stamattina in borsa. È tutto. Grazie dunque alla nostra Deborah Rossani. Gli ordinativi dell'industria, notizia di questa mattina, hanno registrato ad aprile un aumento del 20,6% rispetto allo stesso mese del 2009 e un rialzo del 4,7% su marzo. Lo comunica l'Istat, precisando che il dato tendenziale è il più alto dall'agosto 2006. Prima di andare a parlare della riunione di governo, un'ultima ora appena arrivata: Don Pierino Gelmini è stato rinviato a giudizio per aver molestato sessualmente alcuni giovani quando erano ospiti della comunità in contro di Amelia. La decisione è stata letta poco fa in aula dal GUP di Terni, Pierluigi Panariello. E veniamo dunque al Consiglio dei Ministri. La riunione di governo è iniziata da poco. Al vaglio ci sono le norme sulla libertà d'impresa e non solo. In diretta da Palazzo Chigi, Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno. Riunione dell'esecutivo dedicata dunque al rilancio della crescita del paese, rilancio che, come spiegato più volte dai Berlusconi e Tremonti, passa necessariamente attraverso una maggiore semplificazione ed elasticità del mondo produttivo. Da qui un intervento organico e definito da Palazzo Chigi libertà d'impresa. L'idea del governo ruota intorno a due provvedimenti, uno con le misure per la semplificazione da approvare con i tempi della legge ordinaria e poi una prima bozza di DDL costituzionale con la modifica degli articoli 41 e 118 della Costituzione. Il primo passo dunque vede la semplificazione sulle pratiche di inizio attività, fase questa affiancata dalla nuova disciplina dello sportello unico, tempi rapidi dunque per entrare in attività, per produrre ricchezza per il paese, per essere al passo della concorrenza internazionale, per arrivare in modo più semplice ai finanziamenti degli istituti di credito. Simone. Sì, Vincenzo, sul fronte della Costituzione quali sono esattamente le modifiche che si prevedono? Sì, è lo stesso governo a spiegare che non si tratta di una modifica della Costituzione ma di un suo aggiornamento. Di fatto è iniziata l'attività di un'impresa, sarà oggetto di esame a posteriori a tutti i livelli, Stato, Regioni ed enti locali, ed è questo l'ambito degli aggiornamenti relativi al 118 della Costituzione. L'articolo 41 verrà invece integrato, tra l'altro, nel seguente modo: la Repubblica promuove il valore della responsabilità personale in materia di attività economica non finanziaria. E da Roma è tutto. Grazie dunque al nostro Vincenzo Miglietta. Il sindaco di Milano Letizia Morati ha fatto sapere che non sarà mercoledì davanti a Palazzo Madama per la protesta organizzata dall'Associazione dei Comuni contro i tagli contenuti nella manovra correttiva del governo. Ad annunciarlo è stato lo stesso primo cittadino. Morati nei giorni scorsi aveva criticato la manovra giudicandola penalizzante per le amministrazioni più virtuose. E c'è una norma che rischia di far saltare i vertici degli uffici giudiziari italiani. Si tratta della disposizione che prevede di rateizzare le liquidazioni dei magistrati. A lanciare l'allarme è la stessa Commissione Giustizia del Senato, che sulla manovra ha dato un sostanziale via libera ma con alcune osservazioni. Se dovesse restare la norma così com'è, spiega il presidente della commissione Filippo Berselli, si correrebbe il rischio di far accelerare l'andata in pensione di tutti quei magistrati che vogliono evitare di vedersi rateizzare appunto la liquidazione. Resta intanto in primo piano, a proposito di giustizia, il tema delle intercettazioni. Ieri è iniziato l'esame del DDL in commissione giustizia a Montecitorio. Da Montecitorio la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra, quali sono le novità? Sì, buongiorno. Così il testo ha cominciato il suo iter in commissione, dunque si è entrati nel vivo del dibattito parlamentare. Maggioranza divisa, con Finiani e Leghisti entrambi convinti della necessità di modifiche che evitino il pericolo di una bocciatura del capo dello Stato, e a ufficializzare questo nuovo asse all'interno del PDL è stato ieri Bossi al termine di un colloquio con Fini. Se Napolitano non firma siamo fregati, è necessaria un'intesa con il Quirinale, ha detto, ma l'ipotesi di una trattativa sarebbe respinta dal Colle. Napolitano insomma non vorrebbe essere coinvolto nella rissa interna alla maggioranza né negoziare modifiche o ritocchi, ma vorrebbe giudicare la legge solo alla fine del percorso. E anche il PD invita a non tirare per la giacca il capo dello Stato, PD che con Bersani commenta le divisioni nel PDL. Grazie a noi, dice il segretario democratico, sulle intercettazioni non possono più tirare dritto, mentre Di Pietro chiede a Fini al Parlamento di bocciare il testo. Intanto ieri, come dicevamo, in Commissione Giustizia la Presidente Buongiorno, consigliera giuridica di Fini, ha tenuto la sua relazione, applauditissima da Finiani Lega Opposizioni, almeno gradita al PDL, mentre Berlusconi, stretto dai suoi stessi alleati, secondo alcune fonti non avrebbe ancora deciso cosa fare, se portare il testo su un binario morto o aprire realmente alle modifiche. Da Montecitorio per ora è tutto a buona linea. Grazie dunque alla nostra Alessandra Schepisi. Parliamo adesso del nuovo attacco contro i nostri militari in Afghanistan. Erano le 7:20 locali di questa mattina. Una pattuglia di alpini della Task Force Center, formata da 6 mezzi blindati, stava percorrendo un tratto disabitato a 12 km da Shindad, nella provincia di Herat, nel nord-ovest dell'Afghanistan. All'improvviso l'esplosione, che ha colpito solo uno dei blindati. Il mezzo ha resistito all'onda d'urto, riportando solo qualche danno alla parte inferiore e proteggendo i soldati all'interno, poi recuperati dalle unità di rinforzo. Gli specialisti del genio ora sono al lavoro per capire tipologia e provenienza della bomba. La missione però non si è fermata. Il resto della pattuglia ha proseguito il viaggio verso il villaggio di Masian, nella valle di Zerko, per incontrare i leader locali nell'ambito delle iniziative portate avanti dalla task force per coinvolgere le comunità nel controllo del territorio. Ancora una volta mettono paura gli IED, gli ordigni esplosivi improvvisati al centro del film The Hurt Locker, premio Oscar di quest'anno. Nello stesso distretto, quello di Shindad, sabato scorso dei bambini avevano segnalato una bomba, poi disinnescata dai nostri soldati, a 5 km dall'aeroporto dove si trova una delle basi italiane. Matteo Finco, GR24, Il Sole 24 Ore. Cambiamo decisamente argomento. Le donne sono l'arma segreta per rilanciare lo sviluppo. Con questa convinzione Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, premierà oggi alle 15.30 nella sede di Confindustria le vincitrici delle Mele d'Oro, le donne che si sono distinte quest'anno per creatività e innovazione. La trionfatrice del Roland Garros, Francesca Schiavone, il direttore generale del Teatro alla Scala, Maria Di Freda, la consigliera nazionale di parità, Alessandra Servidori. Sono solo tre delle donne che riceveranno oggi le Mele d'Oro 2010, il riconoscimento del premio Marisa Bellisario. E le premiate si dicono felicissime, come Matilde Bernabei, presidente della Lux Vide. Ho pensato che era ora, perché vi devo dire che io ho avuto una vita professionale molto molto intensa, già da molto giovane, e quindi poi per me è stata una grande soddisfazione, anche perché conoscevo bene Marisa Bellisario e mi è stata molto vicina, insegnandomi soprattutto e spronandomi ad avere coraggio e insieme a utilizzare da donna le mie specificità di creatività e innovazione, rimanendo però sempre femminile. E la Lux Vide ha realizzato in questi anni molte fiction con donne protagoniste, da Maria Callas a Coco Chanel, ora in cantiere anche Le storie delle sorelle Fontana è quella di una moderna Cenerentola. Eppure si potrebbe raccontare in futuro anche proprio la storia di Marisa Bellisario. Certo, assolutamente. È stata una donna combattente davvero. Purtroppo è morta giovane e ha anche sofferto tanto, sia per la salute fisica, sia per quello che ha dovuto combattere, fiaccata dalla difficoltà che trovava anche a operare in un mondo che allora era tutto maschile. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:17 minuti e 30 secondi nella prima parte del giornale radio. Abbiamo parlato delle reazioni all'ipotesi di una tassa sulle banche proposta ieri dal Consiglio europeo, reazioni negative tanto dai banchieri quanto dagli industriali, mentre non ne risentono i titoli degli istituti di credito in borsa. Abbiamo parlato del Consiglio dei Ministri che approverà le norme sulla libertà di impresa. Tra l'altro si è appreso che il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi poco fa è andato al Quirinale per proporre al Capo dello Stato la nomina di Aldo Brancher a ministro per l'attuazione del federalismo. Abbiamo parlato del nuovo attacco contro gli alpini in Afghanistan. Adesso ci occupiamo della sentenza di ieri per il G8 di Genova. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate oggi dai quotidiani, Gianni De Gennaro sarebbe tentato dalle dimissioni da direttore del Dipartimento per l'Informazione e la Sicurezza dopo la sentenza che lo ha condannato per aver istigato l'ex vicequestore di Genova Francesco Colucci a testimoniare il falso per il blitz alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Per raccontarvi della conclusione del processo alla Diaz e della condanna a un anno e quattro mesi a Gianni De Gennaro, ex capo della polizia durante il G8 di Genova e oggi capo dei servizi segreti, dobbiamo raccontarvi cosa accadde quella notte. Michelangelo Forniere era proprio dentro la scuola il 21 luglio 2001, era vicequestore aggiunto del primo reparto della mobile di Roma. Vide i suoi colleghi massacrare persone inermi, parlò in aula a Genova di macelleria messicana. Sentiamo la sua deposizione. Spiegarlo che c'erano 4-5 poliziotti, io questo non sono in grado di riferirlo, che stavano facendo quello che non doveva essere fatto. Cioè una volta praticamente inertizzati stavano infierendo sui feriti. Perché non l'ha detto prima questo? Perché il senso d'appartenenza non me la sono sentita. Lo spirito di appartenenza e la falsa testimonianza sono alla radice del processo anche a Gianni De Gennaro. La sentenza di ieri a De Gennaro ribalta quella di primo grado del 7 ottobre 2009, nella quale De Gennaro e Mortola furono assolti. Ieri invece, in appello a Genova, entrambi sono stati accusati di aver istigato alla falsa testimonianza l'ex questore di Genova Francesco Colucci in merito all'irruzione della polizia alla Diaz. Colucci aveva cambiato la propria versione proprio durante lo svolgimento del processo, dove veniva stabilita l'assoluzione degli imputati per insufficienza di prove. Colucci in quell'occasione sostenne che De Gennaro non fosse al corrente delle violenze alla Diaz, ma poi, parlando con Mortola al telefono, disse: «Ho parlato con il capo, devo fare marcia indietro». Questo quanto fu registrato dagli inquirenti in una intercettazione. Il capo era De Gennaro. Il legale di Mortola ha dichiarato: è un fardello in più che ci porteremo in Cassazione. Di fatto però le condanne di ieri chiudono in secondo grado i maggiori processi legati ai fatti del G8 di Genova del 2001. Finora le sentenze della Corte d'Appello di Genova hanno interessato 25 manifestanti accusati delle violenze di strada. È pendente per loro il ricorso in Cassazione. I 44 tra poliziotti, agenti di polizia penitenziaria e medici imputati per le violenze nella caserma di Bolzaneto e i 27 imputati per l'irruzione nella scuola Diaz. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E veniamo ad un'altra vicenda alla quale si è legata l'espressione G8 negli ultimi tempi, ossia la vicenda degli appalti. La cricca coinvolta negli appalti appunto per la scuola dei marescialli dei carabinieri di Firenze e per altre opere si muoveva in una situazione in attuale divenire caratterizzata dall'utilizzazione spregiudicata di un sistema di relazioni professionali e personali che ha realizzato una rete di interessi intrecciati non legittimi. Lo sottolinea la Cassazione, che ha appena depositato le motivazioni della decisione con la quale lo scorso 10 luglio ha deciso il trasloco dell'inchiesta fiorentina a Roma, confermando le misure cautelari per Fabio De Santis, Guido Cerruti e Francesco De Vito Piscicelli. Intanto emergono nuovi particolari. Sentiamo. Niente commissariamento, ma uno stop per 8 mesi. Il GIP Massimo Ricciarelli ha deciso che le aziende del gruppo di Diego Anemone non potranno lavorare con la pubblica amministrazione per i prossimi 8 mesi, ma non saranno comunque commissariate come chiesto dalla Procura di Perugia. La decisione del GIP arriva nel giorno in cui, nell'indagine sulla cricca degli appalti per il G8, il Vaticano, seppure in forma non ufficiale, prende le distanze dai personaggi che potrebbero essere coinvolti. Papa Benedetto XVI ha anche incontrato oggi l'attuale prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, il cardinale indiano Ivan Diaz. Di Castero Vaticano, che un tempo si chiamava Propaganda Fide, è al centro delle cronache giudiziarie per i rapporti tra il precedente responsabile, l'attuale arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, e Guido Bertolaso. Sepe sarà interrogato presto. Fonti vaticane fanno notare che eventuali illeciti, ove mai fossero provati, sarebbero personali. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora all'estero, negli Stati Uniti, dove è stato fucilato per sua scelta un detenuto condannato a morte nello Utah. Per il condannato una sedia nera con delle cinghie e una tuta con un cerchio di stoffa bianco all'altezza del cuore. A pochi metri di distanza, nascosti da una feritoia, 5 uomini pronti a sparare con proiettili che normalmente si usano per la caccia ai grandi animali come gli orsi o le alci. La procedura dell'esecuzione a morte per fucilazione è stata messa in atto alla lettera. Finora è stata adottata solo in 3 casi, l'ultimo poche ore fa nello Utah. A morire Ronnie Lee Gardner, condannato nel 1985 per duplice omicidio. È stato lui a scegliere la fucilazione, un modo a suo parere meno doloroso dell'iniezione fatale. Più volte Gardner aveva tentato di ottenere la grazia. Ai giudici ha detto di essere una persona capace di fare del bene, tentativi falliti. L'ultimo a opporsi è stato il governatore dello Utah. In America una condanna a morte mediante fucilazione non si vedeva da 14 anni. Solo 2 gli stati dove questo tipo di esecuzione è ancora possibile, l'Oklahoma e per l'appunto lo Utah. Qui in realtà la fucilazione è stata abolita dal 2004, ma per i condannati prima di questa data resta il diritto di scegliere come morire. Roberto Bonaldi, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo in chiusura e andiamo a parlare di mondiali. Torna a giocare tra poco la Germania, unica tra le squadre europee ad aver convinto. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato in Sudafrica, Dario Ricci. Dario. Sì, buongiorno. Partono spesso senza i favori del pronostico, ma molto più spesso arrivano poi in fondo. Stiamo parlando chiaramente dei tedeschi, della Germania, che dopo il roboante esordio col 4-0 contro l'Australia è oggi attesa alla prova del 9 fra pochi minuti contro la Serbia a Port Elizabeth. Punto di diamante della squadra tedesca chiaramente gli attaccanti Podolski e Klose, ma anche una banda di giovanissimi che il tecnico Lowe ha saputo lanciare in prima squadra. Il rischio per i tedeschi è quello degli infortuni, delle tante assenze. La squadra è stata falcidiata alla vigilia del mondiale. L'assenza più illustre, ma certo non l'unica, è quella del centrocampista del Chelsea e capitano deputato della squadra, Michael Ballack. Curiosità dell'ultimo momento: a rischio in qualche modo in questi giorni è stato anche Bastian Schweinsteiger, il centrocampista del Bayern Monaco, che è stato di fatto il migliore in campo nella sfida contro l'Australia. Perché? Per una semplice influenza causata dalle rigidissime temperature dell'inverno sudafricano. E allora Schweinsteiger è stato curato nel migliore dei modi dallo staff medico e tutti gli altri giocatori sono stati messi in isolamento proprio per evitare il propagarsi del virus. Consiglio adottato e seguito dai medici, addirittura quello di asciugarsi bene i capelli dopo gli allenamenti per evitare raffreddori. Insomma, i tedeschi di infortuni e di assenze ne hanno avuto abbastanza e allora è meglio essere zelanti nelle precauzioni. La prova del 9 adesso sarà proprio la Serbia di Stankovic, sconfitta nella prima giornata dal Ghana per 1-0, partita decisiva per i serbi. Staremo a vedere. Per il momento da Johannesburg è tutto. Grazie dunque al nostro Dario Ricci. Tra chi ha deluso invece i francesi, che ora rischiano di uscire al primo turno. Addio, se non alla Francia, che ha pochissime possibilità di sfangarla, diciamo addio di sicuro a quel simpaticone di Raymond Domenech, un allenatore così urticante che al confronto anche Lippi sembra l'animatore di un villaggio vacanze. Con questa batosta la Francia si dissolve, e si dissolve come un pipistrello all'apparire del sole anche Domenech, che da tempo resisteva a se stesso e alle sue performance desolanti. Dopo la finale di Berlino non ne ha più azzeccata una, fuori nella fase a girone degli Europei 2008, fuori al 99% nella fase a gironi del Mondiale africano. Domenech, faccia triste da insegnante in gita, è la foto di una Francia in deriva lenta, che ormai fa solo malinconia, troppo in difesa per farci rabbia, per smuovere il sangue dell'antica rivalità. Una Francia che precipita proprio nel giorno in cui De Gaulle la chiamò alla ribellione. E Lucifero Zidane si sciupa come una vecchia gloria a soffiare trombette per gli sponsor del mondiale. Ma anche noi italiani abbiamo poco da ridere. Col Messico le abbiamo buscate. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura un'ultim'ora, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato la nomina dell'onorevole Aldo Branchera ministro senza portafoglio, sarà ministro per l'attuazione del federalismo. È tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi, con in regia Filippo Aureggi. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.